Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlerò dei classici Disney. Il film di cui vi parlerò oggi è La Bella Addormentata nel Bosco, film prodotto nel 1959 ed è considerato il 16° classico Disney. Gli studios in questo periodo, dopo i vari film che avevano prodotto, che avevano avuto un discreto successo, volevano cavalcare di nuovo la cresta dell'onda delle fiabe. Decisero di ispirarsi alla fiaba di Charles Perrault, La Bella Addormentata. Il film vede come protagonista la principessa Aurora, che è la primogenita della famiglia reale. Dato che la famiglia reale aspettava da molto tempo una primogenita, la bambina fu accolta con grandissima festa. E durante il battesimo furono invitate varie fate, che nel film sono tre, ovvero Flora, Fauna e Serena. L'unica fata che non fu invitata fu appunto Malefica, che era la fata cattiva, tra virgolette, che fondamentalmente apparve al battesimo improvvisamente e maledisse Aurora, dicendo che al tramonto del suo 16° compleanno si sarebbe addormentata profondamente. In realtà Malefica aveva predetto che sarebbe morta, però la fata Serena decise di aiutare Aurora e come desiderio espresse che lei si addormentasse piuttosto che lei morisse. Per proteggerla, le tre fate decisero di adottare Aurora, che verrà chiamata Rosa Spina, e vissero con lei nascoste nel bosco fino ai suoi 16 anni. Al compiersi appunto dei suoi 16 anni però la profezia comunque si avverò e di conseguenza Aurora cadde in questo sonno profondo indotto appunto da Malefica. Però in suo soccorso verranno appunto le fate e il suo innamorato, che era il principe Filippo, a cui era già destinata quando era appena nata. Il suo promesso sposo Filippo, tra l'altro, dovrà scontrarsi anche con Malefica, che si era trasformata in un drago. Ovviamente la storia avrà un lieto fine, dato che Disney ha deciso di riadattare la fiaba, perché la fiaba originale non ha per niente un lieto fine, anzi, Aurora rimarrà addormentata per 100 anni e il suo principe non potrà sposarla, dato che ormai era invecchiato, e quindi il finale era molto più cupo rispetto al cartone, ovviamente. Purtroppo il film, annoverando animatori molto famosi e molto importanti come Mark Davis o addirittura il direttore Eric Larson, riscosse poco successo, anzi fu quasi un flop per gli studios, dato che fu un film molto dispendioso che però il botteghino fece molto meno di quanto si aspettassero. Tanto che la Disney decise di non creare più altri film basati su fiabe per circa 30 anni, fino alla Sirenetta che è della fine degli anni 80. Uno dei motivi che probabilmente non ha reso popolare La Bella Addormentata nel Bosco è stato il design. La Bella Addormentata, infatti, rispetto agli altri film della Disney, ha un design molto più stilizzato e molto più cupo, fra virgolette, perché il pittore e anche il direttore artistico del film, che era Eyvind Earle, ha creato appunto questi scenari, per chi ha visto il film, che sono molto stilizzati, molto cupi, e per il periodo, soprattutto per un film per bambini, non era stato per niente apprezzato, come era successo anche al tempo con Alice nel Paese delle Meraviglie. Anche se inizialmente fu una perdita economica molto dispendiosa per gli studios, La Bella Addormentata oggi è un film molto molto apprezzato da tanti critici diversi, anche soprattutto per il suo stile. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.